L'arrivo della manovra in Parlamento apre due capitoli interessanti. Il primo è quello europeo, perché nella legge di bilancio si prevedono 120 miliardi dal Recovery Fund per i prossimi tre anni, ma al momento, come ben sapete, non c'è accordo. Il secondo è quello politico, perché ieri è tornata a manifestarsi la volontà di Silvio Berlusconi di dare un supporto alla maggioranza proprio sulla manovra, con conseguenti ire del resto del centrodestra. La giornata di ieri sul fronte del virus ha fatto segnare nel frattempo un nuovo rallentamento nella crescita dei ricoveri, 450 in più, e dei ricoveri in terapia intensiva, 43 in più, con aree del paese più in sofferenza di altre, come ben sapete, e con polemiche continue sui famosi 21 indicatori. E la Calabria? Ah già, la Calabria. Beh, il commissario ancora non c'è. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6, 32 minuti e 40 secondi. Ci siamo, è giovedì 19 novembre. Già iniziate questa mattina, cioè già siete ripartiti con questa storia calabrese, perché devo dire che poi ci fermeremo a un certo punto, arriverà qualcuno. Qualcuno mi manda il meme, la foto di una scena di Shining con lei al telefono e lui dall'altra parte, Jack Nicholson dall'altra parte, lei che gli dice: allora hai accettato il lavoro? E lui risponde: sì amore, andiamo a Catanzaro. Poi la finiremo con questa storia, la finiremo. Non riesco ad immaginare mondi più lontani degli intellettuali francesi di sinistra, che noi immaginiamo sempre in una sorta di stereotipo con il dolce vita e fumando una gitana, e il leader della Lega Matteo Salvini. Eppure entrambi si sono intestati questa battaglia del Natale senza Amazon. Quest'anno comprate nei negozi di quartiere. Una proposta così, è là. Diciamoci la verità. È una proposta di bandiera, ma chi di noi riesce a pensare a un Natale senza fare acquisti online? Amazon o non Amazon, dai, su... Ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Tra l'altro, considerate che ci sono 14.000 piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon per 60 milioni di prodotti l'anno. Ma del resto è il momento delle proposte bizzarre, come quella sulla cancellazione del debito lanciata dal... Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Adesso lo peschiamo e ce lo sentiamo, perché ieri, dopo tutto il casino, il caos che ha sollevato Sassoli, dice: ma guardate, l'importante alla fine era sollevare il dibattito. Guarda, però dov'è il problema? Che per la prima volta ci sono 27 paesi che stanno spendendo tanti soldi per il Covid. Allora, abbiamo la possibilità di fare in modo di condividere questo debito che tutti stanno facendo. Ci sono nella storia tante esperienze, c'è anche la perennizzazione del debito, gli economisti lo sanno bene e che cosa, quali conseguenze potrebbe, certo, benefiche potrebbe avere su questa materia. Io non voglio chiudere il dibattito, non abbiamo delle proposte, credo che in questo momento sia bene suscitare proprio l'interesse intorno a una politica comune. E qua, no, perché prima era cancelliamo il debito fatto con la pandemia, adesso dopo che Zingaretti gli ha tirato uno scappellotto e ha detto adesso smettiamola con queste idee un po' strane, dopo che la BCE gli ha detto guarda non se ne parla, dopo che il governo ha detto il nostro impegno è ridurre il debito, ha detto forse è meglio che su questo rallenti un attimo. Dunque, su cosa andiamo? Andiamo su questi 21 indicatori che continuano a far discutere, perché poi c'è la Lombardia che dice noi in questo momento saremmo praticamente in zona arancione e il Friuli Venezia Giulia con il presidente Fedriga che dice ormai il paragone è quello. Ieri il presidente della regione Liguria Toti aveva parlato di numeri all'otto, Fedriga dice sono come la ruota della fortuna. No, penso che ho voluto usare una frase anche per raccontare come le regioni non sono a conoscenza delle valutazioni, del peso dei diversi parametri e diventa di fatto una ruota della fortuna per capire in quale zona sei. E io lo dico con chiarezza, non soltanto per fare misure meno restrittive, ma magari anche più restrittive. Ancora Fedriga, non è normale che per uno 0, si cambi posizione. Però mi sembra normale che per un parametro che è lo 0,02 più basso dell'1,25, che quindi ti permette di stare in fascia 2 per quanto riguarda l'RT, ci sono delle reazioni, se lo 0,01 sopra devi fare misure totalmente diverse. Oh, non ve l'ho detto, ma lo sapete che potete intervenire al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp, WhatsApp audio, le vostre voci. Vedo che vi state scatenando sulla vicenda di Amazon tra chi ci dice Spezia, guarda, io acquisti online non ne ho mai fatti. Che le devo dire? Magari non ne ha mai nemmeno avuto bisogno. Altri che puntano il dito su quelle forme che consideriamo di parziale elusione fiscale che mette in atto Amazon e che mettono in atto le aziende big tech. Ci sono tutti ragionamenti che ci stanno, per carità. Diciamo che l'idea di andare ad affollare i negozi in questo momento non è il massimo, però ci si ragiona, ci si ragiona e le vostre opinioni sono benvenute. Qualcun altro ci parla di vaccini. Oh, vi voglio dire subito che ospiteremo alle 8:35 il direttore dell'Agenzia per il Farmaco per parlare esattamente di questo, parlare dei vaccini, parlare di questi dati che ci sono arrivati dai sondaggi che indicano che non tutti gli italiani, anzi una parte consistente degli italiani non sarebbe disposto a farsi inoculare il vaccino contro il Covid. E lo faremo appunto col direttore dell'Agenzia per il Farmaco, il quale ha anche accettato, e lo ringraziamo, di rispondere a delle vostre domande se ne avrete, anche se arrivano morbidamente, se non mettono in mezzo il complotto internazionale pluto-giudaico-massonico, anche di chi nei vaccini non crede, perché nostro dovere è anche cercare di informare, di far capire, di dire quello che ci dice la scienza. Caro Francesco Cancellato, buongiorno, vice direttore di Fanpage. Come stai, buongiorno. Francesco? Tutto bene? Sì, tutto, buongiorno, tutto bene. Ottimo, ottimo. Senti, oh, si sono scatenati i nostri ascoltatori con questa storia di Amazon. Là. Ormai siamo tutti concentrati e tutti proiettati sul Natale. È proiettato sul Natale il Comitato Tecnico Scientifico e ci dice non sarà come il Natale degli anni scorsi, sarà più intimo, sarà con i parenti. Ci sono, ovviamente sono tutti concentrati sul Natale perché è un, dal punto di vista economico è un momento fondamentale, potrebbe essere il momento di svolta, Francesco, no? Sono due temi. Sul tema moralistico non farmi mettere becco, nel senso che io del Natale del raccoglimento o di un politico col dolce vita, che sia di destra e di sinistra, che mi dice dove devo fare gli acquisti di Natale, sinceramente faccio volentieri a meno. Però c'è un altro aspetto, che dopo l'estate il Natale è un momento in cui si fa tanto PIL in Italia, in cui si produce tanta ricchezza di solito, e dopo un lockdown, dopo le restrizioni di questo autunno, ci sono tanti negozianti, ci sono tanti commercianti, ci sono tanti autonomi che dicono noi, se, ma anche tanti lavoratori dipendenti, banalmente i famosi camerieri dei ristoranti, i commessi dei negozi o gli stagionali che a Natale devono tirare su due soldi magari facendo promozioni, e dicono se non si apre noi non riusciamo a mettere insieme il pranzo e la cena, ed è estremamente, è molto legittimo quello la loro istanza. Sì. È un momento molto importante per la vita economica del paese. Detto questo, dall'altra parte, come al solito, dobbiamo capire che i momenti più rischiosi sono quelli in cui, diciamo, l'emergenza, le istanze dell'emergenza economica e sociale e quelle dell'emergenza sanitaria si divaricano. Sì. Perché se noi abbracciamo semplicemente l'emergenza sanitaria, rischiamo di ritrovarci un paese col sedere per aria. Se noi abbracciamo criticamente l'idea di chi dice salviamo il Natale, salviamo l'economia italiana, sì, e chi se ne frega per 15 giorni dell'emergenza sanitaria, io ricordo che gennaio e febbraio sono i mesi di picco dell'influenza, sì, stagionale, sono i mesi in cui fa più freddo e sono, sì, i mesi in cui potrebbe esserci una terza ondata violenta, sì, o sì, una seconda ondata bis di coronavirus. Sì, guarda, devo dire Francesco, sì, dall'altra parte mi piacerebbe che si ragionasse un po' di più su questo, sulla questione economica che rappresenta il Natale, invece di sentirmi questa retorica melensa continua su riabbracciare i parenti, i nostri cari, il cenone di Natale. Ragazzi, stiamo parlando di altro in questo momento, per carità, il Natale è chiaramente un momento importante per tutti noi, il momento nel quale stiamo con la nostra famiglia, poi qualcuno è anche contento di non starci alla fin fine, di poter stare isolato in casa e non e farsi il cenone solamente in due con la sua compagna o col suo compagno. Mi piacerebbe che si rimanesse su questo, sul tema economico e non sulla parte appunto di retorica melensa che sento anche da parte governativa. Nel frattempo, i nostri amici calabresi non hanno ancora un piano pandemico, non ce l'hanno ancora, e non hanno nemmeno un commissario, perché dopo tutto quello che è saltato, ovviamente il governo adesso ci sta andando con i piedi di piombo per fare le nomine. Si parla dell'ipotesi del generale D'Andrea, ex guardia di finanza, in questo momento, se non vado errato, è nello staff di Beppe Sala, è stato alla guida di una serie di aziende, ma ci sono anche altri nomi che girano, e tutto però si concentra anche su questa scusa data dall'ex rettore della Sapienza Gaudio sulla moglie, la moglie che non vuole trasferirsi a Catanzaro, desolante, dice la sottosegretaria alla salute Zampa, sentiamola. Io credo però che ci sia anche una riflessione che dovremmo fare sulla classe dirigente, perché del fatto che lo dico con rispetto nei confronti del professor Gaudio, però uno accetta e poi il giorno dopo dice che non può andare perché la moglie non vuole andare a vivere a Catanzaro, io lo trovo abbastanza, diciamo, desolante. Morra dei 5 Stelle a Tagadà. Guardi, ufficialmente perché ha sostenuto che la moglie non abbia in grande simpatia Catanzaro. Sì. Io penso che forse si è reso conto che lo sforzo da fare è titanico e per farlo c'è necessità innanzitutto di un consenso generale. Sul suo nome già immediatamente si erano addensate, insomma, nubi per motivi a tutti noti. Che è l'indagine che lo riguardava, a quanto pare in via di archiviazione per aver favorito il passaggio da, della figlia dell'ex procuratore di Catania a professore ordinario. Spirlì, il presidente facente funzione della regione, insiste con questa storia: fateci amministrare la nostra sanità. Tre commissari ad ACTA hanno dimostrato pubblicamente l'inadeguatezza non solo probabilmente personale, ma anche proprio dello strumento del commissariamento. Credo che il tempo del commissariamento sia veramente giunto alla fine e che sia venuto il momento di riconsegnare ai calabresi l'opportunità di potersi amministrare da soli, perché il resto sarebbe veramente un pregiudizio. Traffico. Scrive un commerciante di Pordenone, ci scrive: ma se i negozianti retail propongono e garantiscono gli stessi prezzi di Amazon o più bassi? Io devo dirle la verità, non sono convinto che la battaglia con Amazon da parte dei negozi e dei negozianti si possa fare sul prezzo, ma eventualmente si può fare sul servizio o sulla qualità del prodotto che proponi. Un esempio che mi viene in mente adesso, visto che tutti si sono lanciati nell'acquisto di biciclette: io, se compro una bicicletta in un negozio, scelgo di comprarla in un negozio invece che su Amazon o su qualsiasi altro negozio online, è perché so che poi quel negozio nel quale l'ho comprato è il luogo nel quale posso ritornare se la bicicletta ha qualche problema, eh? Questo intendo per servizio. Poi in alcuni settori si può fare, in altri settori non si può fare, però è su quello che si fa la concorrenza, su quello che tu offri come negoziante al di là del prodotto in sé. Il consiglio, tanto per fare un esempio. Certo, conta e non conta il consiglio, perché poi sui siti online ci sono le recensioni e tutti passiamo anche dalle recensioni, però questi sono punti, mi pare essenziali se si vuole provare a rimanere sul mercato. Poi magari sbaglio, però dibattito aperto e tema larghissimo, ragazzi, larghissimo, larghissimo. Vi faccio sentire questa voce di un esponente di Forza Italia, Antonio Tajani, a Stasera Italia. Sentiamolo. Chiediamo una bicamerale dove insieme si scrivano i progetti per accedere ai fondi europei della New Generation EU o del Recovery Fund. Questo Francesco Cancellato è solo uno dei tanti elementi che testimoniano due cose dal punto di vista politico: il chiaro avvicinamento di Silvio Berlusconi alla maggioranza, quantomeno sul fronte della manovra, e dall'altra parte la frattura sempre più profonda all'interno dello stesso centrodestra, no? Sì, i dietrologi vedono in questo anche un tentativo, diciamolo, di superare il governo guidato da Giuseppe Conte, di fare di questo momento il viatico per dar vita a una nuova maggioranza, ma anche per sostituire il Presidente del Consiglio. La voce che si fa è ovviamente nota, no? È quella: fuori Giuseppe Conte, dentro Mario Draghi, e con Mario Draghi dare vita a un governo. Perché? Perché, come dice Sassoli, che pone un tema, io poi non sono d'accordo, si può essere d'accordo o meno sulla cancellazione, sulla perpetuizzazione del debito, come l'ha chiamata lui, ma pone un tema gigante, e il tema è: ma quando finisce questa storia, noi avremo un debito pari al 160% del PIL, e un PIL che stagnerà. La nuova manovra imposta all'Italia un ulteriore scostamento di bilancio rispetto al DEF di 20 miliardi, giustamente legato all'emergenza in atto. Noi abbiamo una prospettiva di crescita per il 2021 che sarà minore dell'1%, quindi abbiamo un rimbalzo, si chiama rimbalzo del gatto morto, rimbalzo della pallina sgonfia, no? Ecco, il problema di fondo è quello di avere una figura al governo tale da garantire la solvibilità del debito italiano, perché il problema è che è vero, stiamo tutti spendendo tantissimo adesso per il Covid, ma poi usciamo da questa crisi e ci sono paesi che hanno speso tantissimo e hanno debito al 100% del PIL. Ma tu, Francesco, ma tu la vedi questa ipotesi? La vedi questa possibilità, questa idea, appunto, questo avvicinamento di Berlusconi in funzione uscita di scena di Conte, ingresso di Draghi? O è un po' presto? È un'ipotesi su cui convergono tanti interessi. Quello del PD, ad esempio, che la sopporta, diciamo, se vogliamo, il protagonismo di Conte, ma forse è il partito che più lo sostiene. Quello dei 5 Stelle, che abbiamo visto, diciamo, sono dilaniati da lotte intestine, è quella più forte di tutte, è quella che di cui non si parla, cioè quella della leadership tra Di Maio e Conte. Quella di Forza Italia, legittima, di voler entrare al governo, Forza Italia è un altro partito come il PD che fatica a stare all'opposizione e che trova un senso di essere solamente quando è al governo, e si dice anche quella del Quirinale, che per l'appunto è preoccupato dall'ipotesi di avere, dalla necessità di avere un governo che sia credibile sui mercati internazionali, cosa che Conte, Draghi assicurerebbe più di Conte. Questo è lo scenario. I periodi di emergenza in Italia portano sempre con loro, ai noi, tecnici. È successo nel 92 con Ciampi, è successo nel 2011 con Monti, nel 2021 non è solamente palindromo rispetto al 2021, è solamente palindromo rispetto al 12, è un anno di difficoltà vera dell'economia e della sostenibilità dei conti pubblici italiani, cominciano a mettercelo in testa. Sono pochissimi paesi che hanno superato il 150% del PIL e sono riusciti a raccontarlo senza andare in default. L'ipotesi Draghi, caro Francesco, sta diventando un po' come l'ipotesi Amato, per chi se la ricorda. Grazie, ormai è una costante. Grazie Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Non l'ho detto all'inizio, c'è Pietro Lacorte in regia, forse l'ho detto, però lo ripeto che fa bene. Pietro Lacorte in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Il resto della redazione, che sono Gloria Guerrera, Giorgio De Luca e i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Però questi non sono i titoli di coda, perché ci ritroviamo subito dopo il GR per la rassegna stampa.